vista. I mille aspetti dell'attualità. E dunque daremo premi alle aziende che donano il cibo? C'è un piano antisprechi anche in Italia. Buongiorno, ben ritrovati da Irene Zerbini. Partiremo, sì, dalla legge, quella che verrà discussa ad ottobre. C'è un piano per incentivare ristoratori, grande distribuzione, tutta la foliera. Adesso arriverà l'SMS, non si dice foliera, si dice filiera. Vi anticipo, sì, scusate. E tutta la filiera, incentiviamo tutta la filiera a non sprecare. Tra poco parleremo di questa legge, che è diversa, ha proprio un impianto, una base completamente diversa dalla proposta francese, che invece prevede perfino sanzioni di tipo penale. È un reato, sarà un reato in Francia quando verrà del tutto recepita, insomma si arriverà all'iter finale in Francia per questa legge antisprechi. Se n'è già parlato sui giornali, qualche anticipazione, tra poco lo affronteremo anche col nostro corrispondente che oggi è francese per i dettagli, ma il concetto in Francia è di punire fino al carcere coloro che sprecano. Mentre in Italia la proposta Spreco Zero, presentata alla Camera dei Deputati, e inizierà il viaggio in Parlamento la prossima, più o meno in ottobre, però il disegno su cui si sta lavorando, uscito dalla Commissione, prevede incentivi per coloro che hanno atteggiamenti virtuosi. Sono due mentalità completamente diverse. Ma al di là della questione, diciamo, della grande distribuzione o del ristorante, c'è poi anche il comportamento individuale, e si scopre che sul comportamento individuale gli italiani, per quanto sempre pronti siamo a stracciarci le vesti sugli sprechi e su quello che finisce nell'immondizia, in realtà poi nel piccolo ci vergogniamo anche a chiedere la doggy bag, così è stata ribattezzata quella sorta di, a volte borsa di cellofana, a volte contenitore d'alluminio, quello non importa come sia impacchettato l'avanzo, ma il concetto è: quando si è in un ristorante, in una pizzeria, il cibo, in alcuni casi anche il vino non consumato, viene portato a casa su richiesta. Si fa molto all'estero, soprattutto in altri paesi, e scopriamo da un articolo, visto che ci chiedete dove è, della Stampa di oggi, che in realtà in Italia genera ancora molto imbarazzo. E questo è un metodo antispreco molto, come dire, efficace, immediato. Eppure tanti ancora si vergognano a richiedere di portarsi a casa ciò che non è stato consumato a tavola. E voi cosa succede quando vi capita, non so, di uscire in pizzeria e di non finire tutto? A parte che il 28% degli italiani, quindi una percentuale molto elevata, si rileva, finisce tutto quello che c'è nel piatto quando mangia fuori. Rimane il fatto che il 45% in Italia di frutta e verdura acquistata finisce in pattumiera, il 30% del pesce, il 30% dei cereali, il 45% delle radici e dei tuberi. È come se ogni famiglia italiana ogni settimana buttasse via l'equivalente, chiaro che è una media questa, di una spesa di 6,5 euro. Il cibo sprecato nelle varie fasi della catena di produzione delle nostre tavole in pratica diventa tonnellate. Si spreca anche durante la produzione agricola, ben 510 milioni di tonnellate. Si spreca nelle fasi immediatamente successive alla raccolta, si spreca quando si trasforma e poi durante la distribuzione. Oggi noi avremo ospiti a Spunti di Vista, tutte idee, avremo ospiti idee più che persone, perché sono idee innovative e che hanno in qualche modo portato una soluzione a questo problema. Intanto vogliamo chiedervi se avete o meno imbarazzo a richiedere la doggy bag, se mai vi è capitato, e soprattutto se approvate l'impianto della legge francese, che dice sanzioni fino al carcere a chi spreca, o se siete più per la soluzione all'italiana, cioè incentivi per chi lo spreco lo arginerà. Al 349-238-6666, questo è il numero di SMS, vogliamo sentire voi e poi vi sentiremo anche al telefono dopo le 8:30 all'800-24-00-24. Visti da fuori. L'abbiamo detto, l'abbiamo annunciato, loro hanno una prospettiva, un'angolatura per vedere le cose anche in Italia diversa, inevitabilmente, sono i corrispondenti stranieri che in Italia vivono e abbiamo annunciato che oggi avremo incontrato un francese. Bonjour Olivier. Buongiorno. Buongiorno, Olivier Tosseri è il corrispondente francese in Italia per Tele e anche per Radio France e racconta praticamente l'Italia a questi francesi. Te lo chiedo, Olivier, non so se è un luogo comune o se è ancora vero, però ti sarà capitato nella tua permanenza in Italia di confrontarti con questo cliché. Questi francesi che un po' ci guardano dall'alto in basso, è vero? Un pochino, perché in tutti i cliché c'è sempre una parte di verità, e effettivamente per alcuni francesi, soprattutto i parigini, ci può essere questo atteggiamento di avere un po' la puzza sotto il naso nei confronti non solo degli italiani. Poi devo dire che comunque l'Italia in Francia è molto molto popolare, cioè i francesi adorano gli italiani, l'Italia, il vostro cibo, la cultura. Poi c'è questa citazione di Cocteau famosissima, che gli italiani sono dei francesi di buon umore, un po' questo, sì, siete i cugini. La trovi ancora vera? Sì. Spesso i corrispondenti stranieri invece dicono che ci lamentiamo molto. È una cosa comune con i francesi, che pure noi ci lamentiamo tantissimo di come funziona il paese, della lentezza dell'amministrazione, dell'inquinamento, di un sacco di cose, ma alla fine gli italiani hanno sempre un modo più dolce, più simpatico di affrontare i problemi rispetto ai francesi. Olivier, adesso accantoniamo un attimo i cliché, raccontaci di cosa ti sei occupato nelle tue corrispondenze dall'Italia. Da quanti anni stai in Italia? Io sto in Italia da 7 anni. Parlavi italiano quando sei arrivato? No, sono arrivato senza parlare italiano. Complimenti, hai una padronanza della lingua eccezionale. 7 anni e lo parli così, complimenti. Dove l'hai imparato? Hai frequentato corsi di italiano? L'hai imparato semplicemente interagendo con la gente, guardando la TV italiana? Come hai fatto? Sì, esatto, ho smesso di guardare la TV francese, di sentire la radio francese. Sono messo a leggere molto in italiano e a frequentare solo amici italiani. E poi il modo più giusto per integrarsi, per capire meglio il paese, per capire meglio la gente. Importante piuttosto che rimanere fra francesi o fra giornalisti del suo paese. E questo è un errore che spesso da espatriati, diciamo così, si compie, cioè quello di rimanere nella cerchia dei propri connazionali e poi si finisce col capire poco anche della realtà che devi raccontare. Sì, esatto, poi ci sono due tipi di espatriati, quelli che rimangono in un altro paese solo per un paio d'anni, 3 anni, vengono perché lavorano in ambasciata o per una grande azienda, e a questo punto effettivamente rimangono fra di loro perché sanno che a breve torneranno in patria. Per quelli che hanno una permanenza più lunga c'è l'atteggiamento è diverso, perché si costruisce la sua vita in un altro paese. È importante avere amici italiani, conoscere, vivere veramente il paese, non solo essere un francese in Italia, essere più un francese d'Italia. È molto importante queste differenze che tu racconti e descrivi molto bene, tra coloro che vanno all'estero sapendo di andarsene, cioè come destinazione temporanea, perché lavora in un'azienda, perché lavora in un dipartimento, perché lavorano in un consolato e sanno che quindi è un momento transitorio, diciamo così, di un paio d'anni o tre, e coloro che vanno all'estero pensando o di rimanerci oppure senza avere una pianificazione, cioè senza conoscere esattamente cosa sarà del loro futuro. E sul New York Times di lunedì, in prima pagina, c'è un racconto che parte invece da un'altra realtà che riguarda i francesi, e si dà la parola a un cittadino francese di origine algerine, e questa è l'apertura al New York Times. Lo si fotografa nel sobborgo, diciamo così, nel quartiere di Saint-Denis, e dice: io trovo che qui in Francia, comunque, per quanto io mi fossi spostato, perché abbiamo con i francesi la stessa lingua, quindi io credevo anche una storia comune, la stessa cultura, ci sia del razzismo, e il razzismo porta alla rivolta, e chiaramente le rivolte e gli atteggiamenti di sfida portano, accentuano ulteriormente il razzismo. È una sorta di spirale, perché non mi sento a casa a questo punto né qui né in Algeria. Come state affrontando questo problema, visto che sempre più spesso si parla di migrazione sia in Italia che in Francia? Sono naturalmente problematiche globali queste, che non si fermano certo alle frontiere, nonostante quello che sta succedendo a Ventimiglia o a Calais. Cioè, come la Francia affronta questo problema, con una volta faceva il giro del mondo sui titoli di tutti i giornali, non solo del New York Times, delle banlieue? Siete diventati una sorta di icona per questa questione. No, poi dobbiamo dire che l'immigrazione in Francia risale a già più di quasi 50 anni, è un paese di immigrazione già da più di un secolo. Per esempio, i miei nonni erano italiani e mio nonno è arrivato in Francia fra le due guerre. Poi c'è stata questa onda di immigrazione dal Nord Africa e dall'Africa dagli anni 60 in poi, e alla fine i figli di questi primi immigrati venuti dall'Africa alla fine sono francesi, sono nati e cresciuti in Francia. Per la maggior parte di loro non sono neanche tornati nei paesi di origine, non parlano la lingua dei genitori, parlano solo il francese, e per questi immigrati c'è un problema di pure sociale, perché effettivamente lo Stato non si è preoccupato tanto delle periferie, delle banlieue. E ultimamente, in questi ultimi anni, si aggiunge pure il nuovo caso di immigrazione con gli sbarchi in Italia e i migranti che vogliono venire nei paesi del nord Europa, e a questo punto, da questo punto di vista, la Francia, con un fronte nazionale, un'estrema destra che cresce sempre di più, ha la tendenza a chiudersi. Poi un paese come l'Italia in crisi, la crescita quest'ultimo trimestre è stata a zero in Francia, e allora la tematica il dossier dell'immigrazione è un dossier caldo, è una cosa che fa paura un po' alla gente, e soprattutto alla classe politica. Poi noi abbiamo delle elezioni regionali a fine anno, e fra due anni si vota per il Presidente della Repubblica e per i deputati. Cioè, vuol dire che non sarebbe molto popolare da parte del governo di far venire più migranti nel dibattito politico attuale. Ecco perché ha scelto la linea dura con Ventimiglia a fine giugno. Per una questione, tu dici, di tornaconto elettorale, che sta un po' condizionando le scelte di tantissimi paesi, e poi il peso dell'estrema destra francese è decisamente più consistente che in Italia, come giustamente ci hai detto tu. I nonni, ci hai raccontato, erano italiani, per quello ti chiami Tosseri di cognome, giusto? Li hai incontrati? Li hai incontrati con i tuoi nonni? Poi, avevi relazioni? Poi era, ecco, parlando di migrazione, era pure un'altra epoca. Cioè, mia nonna, per esempio, che è immigrata in Francia, aveva 35 anni con i figli, non parlava una parola di francese, ma ha smesso di parlare italiano. C'era questa volontà di integrarsi, di diventare francese, e i figli hanno cambiato nome, hanno preso nomi francesi e ci tornavano un po' in Italia ogni anno, però lo scopo era diventare francese. E una cosa che non succederebbe oggi. Oggi i migranti parlano la loro lingua ai figli, continuano un po' approfondire la cultura d'origine, una cosa che non succedeva prima. Effettivamente mio nonno era anche richiesto, era anche richiesto dai paesi in cui si approdava, cioè negli Stati Uniti ti americanizzavano il nome ed era richiesto che fosse e quindi è una sorta di rivalsa quella degli emigranti di oggi o dei discendenti di mettere nomi completamente italiani o del paese d'origine, sì, così da poter salvare anche l'altra identità. Senti, qual è un elemento che hai imparato in Italia, che hai acquisito, diciamo così, nelle tue abitudini quotidiane o nelle relazioni con gli altri? Già il contatto umano è molto più importante, no? Effettivamente è più facile, vai più facilmente verso la gente, verso l'altro, e poi più scioltezza, più... In Francia siamo un po' più come i paesi del nord, un po' più rigidi, pure sugli orari, per esempio. Cioè, poi se un italiano ti dice sto arrivando, vuol dire che sta partendo di casa. Sugli orari, con la quotidianità, impari a essere più sciolto, più... Cioè, non, cioè le prime volte ti arrabbi e poi invece cominci a dire... Senti, poi un altro tema di cui dibatteremo oggi in questa trasmissione Spunti di Vista è la lotta agli sprechi. Sappiamo che in Francia è stata approvata la legge che istituisce il reato di spreco alimentare, addirittura è punito fino a 2 anni di galera, almeno questo si vedrà. Voi avrete una grandissima conferenza sul clima a Parigi a dicembre e questo probabilmente richiamerà un po' alle responsabilità di tutti gli stati di mettere fine a emissioni, sprechi. Come viene vissuta? Qual è la sensibilità ambientale diffusa in Francia? C'è una differenza con l'Italia? Sì, poi abbiamo avuto quest'anno un nuovo ministro dell'ecologia, che è La Royale. Che ovviamente ha fatto di questa tematica il suo cavallo di battaglia. Pure ti ricorderai la polemica a proposito della Nutella, cioè pure il cibo, l'ecologia è una cosa molto importante per lei, perché poi gli dà pure visibilità e un peso forte del Partito Socialista, un peso forte della vita politica francese, e ha a cuore di lasciare una traccia, di lasciare un segno nella sua attività da ministro dell'ecologia. E come un personaggio importante nella politica francese, dà ancora più visibilità alla sua azione, al suo lavoro al ministero. Vuoi dire che lo fa per esistere sulla scena politica? Non solo, ma in parte sì. Poi evidente, come per il momento il bilancio di Hollande non è favoloso, pure il Presidente della Repubblica ha a cuore di portare a casa un risultato anche simbolico con questa conferenza sul clima a dicembre. Olivier, grazie per questa conversazione con noi. Olivier Tosseri è il corrispondente francese in Italia per Télé e Radio France. Abbiamo imparato oggi a conoscerlo. Naturalmente, alla prossima, Olivier, buon lavoro. Grazie, buona giornata. E noi torneremo tra poco a parlare anche di bioeconomia, cioè quello che si può fare in termini di bioplastica, per esempio, per produrre delle plastiche che siano fondate su prodotti di scarto, completamente di scarto, senza ricorrere all'estrazione. Ci sono anche in questo campo dei punti d'eccellenza italiani che vi illustreremo, che vi faremo conoscere. Partiremo da lì anche per parlare dei comportamenti non solo a tavola, ma che nella vita ognuno di noi può adottare per dare un piccolo contributo al riciclo, naturalmente, quando si parla di raccolta differenziata, e al riutilizzo di un prodotto alimentare che magari non è stato nemmeno aperto, non solo non consumato. Si parlerà anche della differenza delle diciture sulle scatole o sui prodotti alimentari, sui pacchetti dei prodotti alimentari, da consumarsi entro o da consumarsi preferibilmente entro indicano una differenza molto importante sul grado di conservazione di quel prodotto. Sono tutti aspetti che analizzeremo insieme ai nostri ospiti, e poi ci sarà anche qualcuno che dice: attenzione, una volta si parlava, ci si trovava anche per fare altro e poi si mangiava, ormai si parla solo di cibo. Quello dell'alimentare è diventata un'ossessione, è diventata un'altra religione. Ce ne parlerà un antropologo decisamente provocante, nostro ospite oggi, il professor Marino Niola. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E 34, ancora buongiorno. Sto scorrendo alcune delle cifre incredibili: 510 milioni di tonnellate di cibo che in Italia si sprecano durante la produzione agricola, e poi ci sono 355 milioni di tonnellate nelle fasi invece successive alla raccolta. Ma quello che è spreco non riguarda solo, non comprende solo ciò che è cibo. Lo spreco, come sappiamo, si concretizza in mille aspetti dell'attività umana. Intanto oggi sullo spreco ci fa riflettere anche un articolo della Stampa che fotografa una mentalità molto radicata in Italia, cioè il vergognarsi. Il vergognarsi di fronte, non so, alla possibilità di richiedere una doggy bag. Voi avete questo imbarazzo o invece semplicemente la chiedete se non avete terminato ciò che avete consumato al ristorante oppure in pizzeria? Questa è una domanda che abbiamo cominciato a porvi da stamattina. Credo che sia giusto portare il cibo avanzato a casa, perché oltre allo spreco, dice Lella, si evita che possa ritornare in tavola sul piatto di un cliente successivo. Attenzione, attenzione, anche questo potrebbe essere un rischio. Non bisogna reprimere, ci scrive Vito, ma bisogna educare. Qui il riferimento è alla proposta di legge antispreco che in Italia è fondata, diciamo così, sugli incentivi per chi adotta delle buone pratiche e non sulla repressione o la punizione. E volevano sapere anche dove si trova questo articolo, l'abbiamo già detto, è su questo giornale La Stampa, potete leggervelo. Ma si segnala in questo articolo il problema dell'imbarazzo che molto spesso caratterizza il consumatore italiano. Paolo invece ci scrive da Roma, dice: io non ho nessun problema a portar via gli avanzi del vino, ma non ho il problema della doggy bag perché io al ristorante mangio tutto, infatti ho anche qualche chilo in più. È sacrosanto, dice Cristina, portare a casa piuttosto che avanzare qualcosa nel piatto esplodo. Questo è Marco da Milano. Insomma, finora di imbarazzo ne abbiamo registrato poco nei nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Antonella, buongiorno, pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Da dove chiama? Da Parma. Dica. E volevo solo dare la mia testimonianza. Io ho un ristorante biologico, vegetariano e vegano a Parma da 19 anni e regolarmente ho abituato tutti i miei clienti a portare via quello che rimane nel piatto. Cioè, anche se non vogliono, lei va lì e dice: adesso te lo porti a casa. No, assolutamente no. Diciamo che ormai c'è una bella conoscenza e senza nessun problema, evitando imbarazzi. Però se il cliente ha gradito quello che ha consumato, io suggerisco sempre di portarlo via, e normalmente, insomma, ormai dopo tanti anni i clienti sono loro stessi a chiedermelo, quindi è proprio una questione di cultura che secondo me, insomma, siamo ancora un po' indietro. Beh, perché però dice che siamo indietro? Quindi trova anche quelli che sono imbarazzati a chiedere? Sì, purtroppo sì, ancora sì. Però ormai per chi è mio cliente abituale e ci frequenta da tanti anni non c'è più nessun tipo di imbarazzo, nel senso che sono loro stessi a dirmi: guarda, non riesco ad arrivarci in fondo, non mi sento bene oggi o qualsiasi cosa, per cui alla fine portano via molto volentieri. Quindi è proprio una questione di crescere un attimino per capire che non c'è nessun bisogno di vergognarsi per fare questa richiesta. Antonella, grazie, grazie. Prego, anzi. Antonella, buon ristoratrice, buon lavoro a lei, e ci ha chiamato da Parma. Pronto, buongiorno. Angelo. Buongiorno, grazie che mi avete richiamato. Dica. Ho 64 anni. Dunque, io quando proprio quest'anno al mare ho visto di quelle cose degli italiani, cioè? Dove c'è il service a prendere tutto quello che c'era e poi lasciarlo nel piatto. Io per esempio quando vado a un ristorante prendo metà porzione, appunto per non lasciare. Anche con i miei nipoti gli faccio portare poche cose. Cosa serve portare un piatto grosso? Poi dopo magari il ristoratore ti fa anche lo sconto, perché ha visto che non hai buttato via del cosa del mangiare. Invece la cultura italiana è che noi è tutto dovuto. Dentro del piatto ci deve essere, se il piatto è alto 3 metri, noi dobbiamo pieno 3 metri di mangiare, poi si butta via. Questa è proprio la cultura italiana. Persone maleducati, ignoranti. Mi deve perdonare, La prego, però Angelo, sa, ci segnalano che alcuni, almeno così è scritto, poi insomma non ne abbiamo ancora trovati tra i radioascoltatori Radio 24, si vergognano per esempio a chiedere questa famosa doggy bag, cioè a chiedere di portarsi a casa ciò che non si è consumato, perché temono di fare la figura di chi fruga nei cestini, così. No, ma è la cultura, perché ha chiesto troppo da mangiare, chiedeva più poco, non aveva. Io per esempio dal ristorante d'inverno dove vado a mangiare la cassola bergamasca, se mi avanza dico: te, mi raccomando, dammene un po' che la porto a casa. Senza alcun imbarazzo, esatto. Grazie, no, grazie Angelo. Naturalmente non è una sorta di ritorno al passato, è un problema più che attuale, perché mentre si spreca contemporaneamente cresce sempre di più, e lo sappiamo, ne parliamo tutti i giorni, la fila di coloro che deve ricorrere all'assistenza pubblica, alle mense per i poveri, per mangiare qualcosa e per portare a casa cibo per i propri familiari. Quindi c'è quest'Italia ancora una volta schizofrenica, che da una parte spreca e dall'altra non ha nemmeno il necessario per vivere. Noi abbandoniamo, ma solo temporaneamente, per qualche minuto, il settore cibo, per rimanere però nel tema importantissimo del rispetto dell'ambiente e degli sprechi. E saluto Carlo Alberto Baesso, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Alberto Baesso, l'abbiamo cercato ieri, perché lui è amministratore delegato di un'azienda che si chiama Eurven, ed è un'azienda che ha inventato una cosa veramente geniale, anche se stenta a prendere piede quanto dovrebbe. Ha inventato un compattatore per rifiuti che premia i cittadini virtuosi. Cioè è una sorta di, posso dire, macchinario simile a quello, simile ai distributori delle bibite. Possiamo fare una similitudine per dare un'idea, per dare una fotografia, visto che siamo in radio, Carlo Alberto Baesso? È esattamente così, anche perché in gergo tecnico non italiano si chiama reverse vending machine. Ah, cioè la macchina del vending al rovescio. Cioè dove ci sono macchine che distribuiscono bottigliette di plastica, dovrebbe esserci in teoria accanto la sorella, che è dove invece il cittadino può inserire il residuo, lo scarto, cioè la bottiglietta di plastica o di vetro, e in cambio, e cosa succede? Come viene premiato, visto che si chiama riciclatore incentivante in italiano? Esatto, essendo reverse vending, cioè nella macchina del vending io inserisco la moneta e mi esce il prodotto. Sì. Ma il prodotto, siccome ha un valore, io lo reinserisco quando ha finito la sua vita all'interno della reverse vending machine, riciclatore incentivante, e la macchina restituisce la moneta. In realtà ne restituisce una parte, perché la macchina riconosce il prodotto e dà un valore a questo prodotto inserito. È per quello che la chiamiamo reverse vending machine, ma anche riciclatore incentivante, perché il prodotto va a riciclo. Quindi è facile da raccogliere, si riduce il volume e si porta direttamente al riciclatore. Questo a volte non restituisce la moneta, ma restituisce dei buoni sconto, cioè è anche personalizzato questo premio a seconda di dove è installato. Esattamente così. Allora, visto che in Italia, a differenza degli altri paesi d'Europa più virtuosi, in cui per legge viene fatto questo sistema, in Italia ci siamo inventati di dire: beh, visto che non è per legge consentito di restituire le monete sul prodotto riciclato, lo restituiamo sotto forma di buoni sconto, di premi sugli acquisti, sulle spese. La cosa che funziona di più oggi è dire: lo porto le mie bottiglie vuote o le lattine nei supermercati e i supermercati mi danno un buono se faccio la spesa in quel punto. Poi noi abbiamo visto, è così che ci siamo imbattuti nel suo prodotto, che è addirittura in una località turistica con spiaggia su un lago ci sono queste macchinette, proprio perché oltre al buono da spendere nei negozi del luogo per i turisti si ottiene il risultato di spiagge più pulite. Ma sì, cioè il principio è sempre quello che per far fare delle cose alle persone, seguivo anche l'argomento prima che state parlando, per far fare delle cose alle persone ci sono due modi per farle fare. Una deve essere una cosa che è divertente da fare, due deve essere una cosa che è incentivante da fare. Allora, se rendiamo il gesto, qualsiasi tipo di gesto, divertente o incentivante, le persone lo faranno. Il principio di dare una multa se uno non fa una cosa non è molto, non funziona molto bene. Se io invece dico do un premio se uno fa quella cosa, come i bambini, do una caramella se fa una cosa, funziona molto di più. È un paradosso, ma ad esempio se io dicessi da domani la legge sulle cinture in automobile dice chi viene fermato alle cinture do dei premi, dei punti in più sulla patente, la gente farà la lotta per farsi fermare con la cintura, cioè tutti la metteranno. Se invece io faccio una repressione, dico molto chi non fa questa cosa, riesce molto meno. Ma anche nel riciclo dei rifiuti dovrebbe essere questo sistema. E io lo uso per le macchine che costruiamo. Mi sembra molto interessante come vi ha interpretato, scusi il termine, l'Inghilterra o Londra. Perché a Londra questo riciclatore incentivante, quindi un'idea italiana, è stato installato all'interno dell'ospedale The Royal London Hospital e quindi all'entrata principale. Questo ecocompattatore offre la possibilità ai pazienti, ai medici, ai visitatori di non solo riciclare, ma donare fondi per l'eliambulanza. Certo, certo, il nostro sistema che abbiamo fornito all'ospedale ha vinto il premio come Apple Awards in Inghilterra, Green Apple Awards, che è un premio sul riciclo, sull'ecologia, sui sistemi che aumentano questa educazione al riciclo e questo sistema virtuoso di riciclo. Ha vinto perché non solo da questi premi, ma è legato a una filiera di sistema che premia tutti quelli che usano la macchina, non solo chi la ricicla, ma chi la raccoglie, l'ospedale stesso che è più igienico, più pulito. Cioè chi inserisce la bottiglia di plastica in quell'ospedale, in pratica, non si vedrà erogare un buono sconto dei soldi. Però l'equivalente contribuisce alla creazione del fondo che porterà poi all'acquisto di questo strumento così importante come... Anche con le vie di Natale, che è una onlus di Aviano che ha una casa per l'aiuto agli ammalati dei tumori, noi doniamo i tappi che vengono raccolti dalle bottiglie. Ogni anno loro riescono a fare 60.000 euro di fondi per destinare a questi malati terminali di cancro. Attraverso i tappi che oggi... Quanto? 60.000 euro l'anno loro fanno con i tappi, il riciclo dei tappi delle bottiglie di plastica. Beh, sono cifre importanti anche dal punto di vista economico e poi soprattutto ribaltano la mentalità italiana per cui il rifiuto è un problema. In questo caso, infatti, e non è l'unico e tra poco ve ne presenteremo un altro, il rifiuto è una risorsa. Prima però controlliamo come sta andando la viabilità. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci scrivono anche da Terlizzi e dicono: nel mio paese è stato installato questo meccanismo del riciclatore incentivante, i bambini ne vanno pazzi. Quindi torniamo alla questione dell'esempio da dare ai bambini, come ci segnalava il nostro ascoltatore nonno che ai nipotini insegna a non ordinare troppo anche quando va al ristorante. Sono tantissimi gli aspetti in cui il singolo comportamento può cambiare la situazione di spreco. C'è anche chi dice che lo spreco fa bene all'economia, l'economia di mercato è una prodigiosa macchina per creare, distribuire benessere e ricchezza, scriveva sul Foglio qualche anno fa Carlo Stagnaro, e quindi in questo senso causa sprechi, ma ci mette nella condizione di vivere di più e meglio consumando più cose e migliori, e quindi benvenga, come dire, lo spreco è segno di benessere e riduce ridurre l'economia ad atteggiamenti di estrema sobrietà fermerebbe questo mercato. Tutte le opinioni sono benvenute, ma ci sembra che la maggior parte invece dei nostri ascoltatori sia molto sensibile alla questione e del riciclo e dello spreco. Io saluto e do il benvenuto in trasmissione a un altro esempio dell'innovatività e della genialità italiana, secondo me, e ancora una volta probabilmente anche questi metodi avranno più successo all'estero che in Italia. Ma sentiamo cosa ci racconta lui. Danilo Carnelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. E tra poco raccontiamo cosa fate voi nella vostra startup. Innanzitutto la presento, lei è amministratore delegato di Galatea Biotech e questa azienda a sua volta ha vinto il primo premio di migliori pratiche di bioeconomy 2015 durante una fiera Bioenergy Italy che si è tenuta a Cremona. Cosa fate, cosa avete inventato e cosa state creando? Allora, Galatea, come ha detto lei, è una startup che lavora su quelle 510 milioni di tonnellate di produzione agricola di scarto, cioè i sottoprodotti. Questi sottoprodotti che l'industria agroalimentare, tra l'altro, paga per smaltire, sono una fonte inesauribile di materia prima e di molecole di ricchezza. Noi, trasformando quello che c'è di buono in questi scarti, riusciamo a ottenere dei biomateriali, nella fattispecie possiamo ottenere per esempio biovernici, bioplastiche, possiamo ottenere della bioenergia tramite biocarburanti o biometano, oppure possiamo ottenere tantissime altre cose e qui non c'è limite alla fantasia, potremmo ottenere profumi, potremmo ottenere aromi, biopesticidi, molecole tipo glicerina, sorbitolo, ma anche potremmo ottenere per esempio, questa è un campo assolutamente da approfondire, delle proteine da poter come dire, impacchettare e utilizzare in quei paesi, per esempio dell'Africa subsahariana, dove è difficile per esempio allevare del bestiame e quindi c'è carenza di proteine. Proteine nobili ottenute da prodotti di scarto, quali potrebbero essere questi prodotti? Allora, i prodotti di scarto dell'industria agroalimentare sono tantissimi, per esempio c'è l'acqua di vegetazione delle olive. Faccia conto che per ogni chilo di olio si produce un litro di chilo di acqua di vegetazione delle olive e un chilo di salsa. Abbiamo il siero di latte che è lo scarto della produzione del formaggio, dove la situazione è ancora più critica. Per ogni chilo di formaggio si producono circa 9-10 litri di siero di latte. Abbiamo, cioè, intere autobotti. Lei pensi, è un caso limite, ma succede che noi abbiamo intere autobotti che arrivano dall'estero in Italia, produciamo il formaggio e poi le intere autobotti se ne ritornano all'estero, perché magari all'estero lo scarto della lavorazione interessa e lo riutilizzano, invece da noi deve essere smaltito a un costo non indifferente per il produttore del formaggio. E quindi voi risolvereste in qualche modo più di un problema, perché non solo si arriverebbe alla produzione di bioplastiche e quindi alla riduzione di emissione di CO2, ma anche risolvereste il problema dello smaltimento per molte imprese della filiera alimentare. Questo esattamente. Tutto quello che noi facciamo rientra nella corrente di pensiero che poi si collega al concetto di economia circolare, dalla culla alla culla. Quindi noi, come dire, la cosa funziona molto bene se, per esempio, un produttore di un qualsiasi genere alimentare ha un sottoprodotto, viene lavorato questo sottoprodotto e il risultato di questo sottoprodotto è riutilizzabile all'interno dell'azienda. Quindi si hanno due grandi vantaggi. Il primo, non si paga per lo smaltimento dello scarto. Il secondo, che si hanno dei recuperi di costi nell'acquisto del prodotto che a noi interessa. Senta, stiamo dimenticando un terzo vantaggio però. Avremmo delle plastiche biologiche. Avremmo delle plastiche biologiche. Delle plastiche che, oltre ad avere l'impronta di carbonio vegetale, quindi non essere derivanti dal petrolio, e questo aiuta l'ambiente perché sequestra CO2 dall'atmosfera, hanno anche l'enorme vantaggio di essere biodegradabili e biocompostabili, il che significa che in un compostatore, in un tempo che è dell'ordine dei 60-90 giorni, io riesco a produrre metano che poi per esempio può essere usato per produrre energia elettrica. Tenga presente che le normali plastiche in circolazione, parlo del polietilene, del polipropilene o qualsiasi plastica che insomma è di uso comune, ha dei tempi di degradamento dell'ordine dei 100 anni, con tutti i problemi che si creano. E tante volte noi compriamo al supermercato il prodotto biologico dimenticando, o comunque insomma non c'è alternativa, portandosi a casa un paradosso, perché il prodotto è di ottima qualità, poi magari invece l'involucro dal cellophane alla bottiglia di plastica in propilene impiegherà 100 anni a essere come dire smaltito nell'ambiente. Questa è una cosa, è un problema che voi aggredite alla radice, quindi. Beh, certamente. Crediamo che un prodotto biologico debba prevedere una confezione biologica, allora si fanno i prodotti biologici con centinaia di certificazioni e poi magari si usa una plastica, diciamo che potrebbe anche essere una plastica riciclata di provenienza dubbia, ne dirò un'altra, c'è un altro grosso paradosso sui prodotti a chilometri zero, dove si lavora tanto per fare un pomodoro a chilometro zero e magari l'involucro del pomodoro è fatto con plastica che arriva dall'Argentina, dico l'Argentina per dire un paese lontano. Bisogna lavorare adesso questo. Credo che ci sia poca alternativa anche per colui che produce prodotti biologici in, come dire, in massima buona fede. Poi il problema del packaging potrebbe essere risolto da soluzioni come quelle che proponete voi. Siete dei professori, siete degli docenti universitari, oltre a lei chi c'è in questa startup? Dunque, la startup ha circa un anno e mezzo di vita, sì. Ci sono io e ci sono dei professori universitari, docenti di biotecnologie industriali. Tenga presente, noi ci muoviamo nel mondo delle biotecnologie industriali, che è un mondo in grandissima crescita, cresce a due cifre sia in Italia che in Europa che nel mondo, quindi la crescita è molto interessante. In un settore che è quello della bioeconomia, che comunque oggi vale circa il 7,5% del PIL italiano e dà lavoro a 1,5 milioni di persone, quindi il tutto che rientra comunque nella corrente di pensiero dell'economia circolare è estremamente interessante. E il rifiuto anche in questo caso è una risorsa, o sempre di più potrà esserlo, potrà diventarlo, perché ci si sta avvicinando alla produzione e di queste bioplastiche e, come avete sentito, alla produzione di comportamenti virtuosi su larga scala che avranno un'incidenza sostanziosa su quelli che sono anche le emissioni di CO2. È una visione un po' troppo ottimistica raccontata così, sembra tutto bello, poi in realtà sappiamo bene quali problemi i rifiuti e lo smaltimento comportino in Italia, ma non solo problemi, interessi economici che si intrecciano naturalmente a questo tipo di settori. Noi torneremo a parlare tra pochissimo, prima diamo la parola al notiziario, di quello che ognuno di noi potrebbe fare. Doggy bag, per esempio, vi crea imbarazzo chiederla quando siete in pizzeria o ristorante? 349 per i vostri sms, 238-6666. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo, la domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E anche Barack Obama si è accorto che il modo per ottenere sostegno fuori dal Congresso al suo piano anti-inquinamento sia quello di coinvolgere le aziende. La bioeconomia, rimaniamo in Europa, cioè quell'economia che riesce a trasformare gli scarti a farne una risorsa, solo in Europa vale 2.000 miliardi. Allora, benvenuti a Spunti di Vista, per chi si fosse sintonizzato da poco, buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo parlando di aziende che utilizzano bioplastiche, biolubrificanti, bisolventi e tanti altri materiali di scarto. Abbiamo avuto Galatea Biotech che ci raccontava come addirittura dalle autoboti che producono acqua di scarto dalla lavorazione del parmigiano si può fare bioplastica, risolvendo anche il problema dello smaltimento e tagliando il CO2. Beh, è molto interessante naturalmente vedere che il mercato di questi bioprodotti raddoppierà da 20 a 40 miliardi di euro nei prossimi 16 anni. 93.000 addetti occupati, quindi si creano anche posti di lavoro, un modo per fare ricchezza con la bioeconomia. C'era un'inchiesta ieri su un quotidiano, L'Avvenire, che parlava proprio delle milioni di tonnellate di scarti agroalimentari che potrebbero essere utilizzati dall'industria in questo senso per la realizzazione di bioprodotti. E poi naturalmente parallelamente c'è l'impegno, quello l'atteggiamento attento che si può avere ogni giorno e in cucina e al ristorante, in pizzeria. Ci scrivono tantissimi dicendoci che loro non si vergognano a chiedere la doggy bag, e molto interesse ha suscitato questa questione delle macchinette che permettono di riciclare le bottiglie di plastica, di tenere le spiagge, i marciapiedi, le città più pulite e di incentivare, perché in alcuni casi distribuiscono, come dire, dei buoni sconto se sono all'interno dei supermercati, in altri casi fanno sì che la collettività possa partecipare con l'equivalente dei tappi riciclati, ci hanno raccontato, o delle bottigliette di plastica, all'acquisto per esempio delle ambulanze, come nell'ospedale londinese. Queste alcune delle storie che abbiamo raccontato finora. Sentiamo anche le vostre. Ettore, buongiorno, benvenuto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, io con la moglie siamo dei camperisti, siamo stati quest'anno in Danimarca. Sì. Ecco, la cosa che ci ha suscitato un attimino un po' l'attenzione è che noi, come quando serviva andavamo nei supermercati a fare la spesa, all'ingresso del supermercato c'era una sorta di bancomat delle bottiglie, non l'abbiamo chiamato noi, nel senso le persone arrivavano lì con le bottiglie che avevano raccolto in casa, non grosse borse, e le inserivano in questo bancomat che poi pensiamo che sia anche un compattatore, quindi le inserivano, man mano venivano contate, schiacciate, secondo noi anche riconosciute in quanto PET, e poi alla fine dell'inserimento gli restituivano uno scontrino che poi presentavano alla cassa. Ecco, cioè che valeva sulla spesa praticamente, sulla spesa, un buono sconto. Sì, sì, sì. Esattamente, quindi questo l'abbiamo visto in particolare in tutti i supermercati, dai più piccoli ai più grandi, quindi c'era questa propensione al riutilizzo delle bottiglie di plastica, ma non solo, quando eravamo a Copenaghen, in quel giorno che siamo passati a Copenaghen, vedevamo che anche l'operatore, Neturbino, sì. Che passava con il camioncino a ritirare la plastica, prima di buttare i rifiuti nel camioncino già li separava alla fonte, quindi recuperava queste bottiglie e le inseriva in un altro posto del camioncino, dai cestini che avevano lungo le strade. Come si arrotonda uno stipendio, è interessante. Esatto. No, adesso scherzi a parte, in paesi dove c'è molto, non ci sono magari queste macchinette, ma c'è un rimborso alla fonte, cioè si riporta la bottiglia dove la si è comprata e lì ti danno. Esatto. E viene utilizzato proprio come fonte d'entrata, per esempio, dagli studenti. Per esempio, da persone che i bambini ci vanno pazzi, come ci segnalano gli ascoltatori, ma serve proprio a tante famiglie per organizzare una sorta di reddito integrativo. Esatto. E perché no, insomma, si aiuta l'ambiente e soprattutto si capisce che lo scarto non è un problema, è addirittura una risorsa. Ettore, grazie, ci ha fatto da corrispondente da Copenaghen in maniera veramente impagabile in questo caso. E allora torniamo a Eurven. Era vostra la macchinetta, Carlo Alberto Baesso, è vostra la macchinetta in Danimarca, secondo lei? Quella in Danimarca no, e purtroppo è il nostro miglior competitor a livello mondiale, però lo ammiriamo perché è stato il primo che ha fatto questa cosa, con l'aiuto anche della politica, perché gli hanno dato molto una mano per sviluppare questo sistema. Ecco, voi ci chiedevano gli ascoltatori come mai non ce ne sono di più in giro, e se esiste una mappa di questi riciclatori. Alcuni vogliono sapere se c'è nella loro zona e altri dicono, questo è Giorgio da Modena, che la differenziata è un valore che si dovrebbe riconoscere ai cittadini e non un servizio da far pagare per lo smaltimento. Allora, in realtà noi abbiamo sul sito internet, stiamo mettendo a posto la mappa di dove sono installati in Italia, anche se sono parecchi, sono quasi 1500, sono niente rispetto al territorio italiano, dove ce ne vorrebbe una almeno in ogni comune. Come diceva il telespettatore, nei supermercati è la zona più semplice, perché io quando vado a fare la spesa non devo fare un trasporto in più, cioè sto andando lì e non devo spendere soldi per benzina per portare su un posto. È più facile anche per il luogo, il supermercato, dove poi acquisto le bottiglie e poi posso anche restituirle. È tutto un sistema virtuoso, è la classica economia circolare che tutti ne parlano in questo momento. Poi invece, per il discorso che non ce ne sono ancora tantissime, è perché non c'è un vero e proprio vantaggio per chi poi decide di installare queste macchine e dare dei buoni sconto, eccetera. Cioè, non vi è uno sgravio fiscale, una riduzione dei costi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, a differenza degli altri stati europei più virtuosi, non c'è proprio questo consenso ad andare in un settore che creerà tanti posti di lavoro. Cioè, il riciclo dei rifiuti creerà più posti di lavoro in assoluto nel futuro. Se uno vuole investire sul lavoro, deve investire sul riciclo. Ci hanno insegnato che noi in Italia abbiamo il turismo perché è il paese più bello del mondo. I turisti, i rifiuti non se li portano a casa, bisogna imparare a riciclarli, e noi costruiamo queste macchine. Grazie, e lo lasciamo andare, sentiamo, si sta muovendo. È interessante questa proposta di sgravi fiscali a coloro che in qualche modo porteranno, non solo nei loro supermercati, perché non nella loro azienda, nella loro scuola, incentivi insomma per chi installerà questi riciclatori. Lo proporremo tra poco quando affronteremo la normativa in Italia e quello che stiamo per sfornare per il nostro piano antisprechi, perché da qui a breve avremo delle novità anche in termini legislativi, proprio così. Andrea Giussani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Andrea Giussani, non è la prima volta che lo sentite ai microfoni Radio 24, è presidente della Fondazione Banco Alimentare. Come potremmo, a questo punto ormai sta diventando più che noto quello che fate, voi siete stati la prima leva in Italia a spingere per il recupero, quando nessuno ne parlava, degli scarti alimentari. Da quanto tempo esistete, Andrea Giussani? Sì, il Banco Alimentare esiste in Italia da 26 anni. Quindi certamente non si parlava allora di spreco, se ne parlava molto meno. Noi abbiamo introdotto allora e aumentato progressivamente una presenza che ormai è in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, sia la leva dello spreco, della lotta contro lo spreco, sia la leva contemporanea del recupero a scopo sociale. Perché va detto che le ragioni della nostra esistenza sono certamente di lotta contro lo spreco, ma di utilizzo di ciò che viene recuperato a fini di alimentazione umana, cioè a fini di recupero del valore dell'alimento recuperato per chi non ne ha o per chi ne ha meno, e quindi la distribuzione alle strutture caritative che si occupano di indigenti. Ora, prima di affrontare la tematica giuridica, perché da qui a breve, anche grazie al vostro lavoro da 26 anni, veramente oggi se ne parla e su tutti i giornali, è una tematica molto, cioè molta più consapevolezza tra l'altro, ma quando voi avete iniziato era veramente qualcosa di pionieristico e che le persone non avvertivano come urgente. Invece adesso che le famiglie certo continuano a sprecare, a consumare, però a questo si è unito una sorta di volontà di fare meglio. Ogni famiglia italiana è come se ogni settimana, così è stato quantificato, tanto per capirci, buttasse in pattumiera 630 grammi di cibo. A cosa equivale in termini monetari? A una spesa di 6,50 euro. E non c'è, nessuno se ne accorge perché molti non notano il pezzo di pane, quel poco di verdura, il mandarino che magari è ammuffito nel frigorifero. Secondo lei sono stati fatti passi avanti in cucina in Italia, cioè da parte delle persone? Si spreca di meno oggi? Sì, come sempre nella vita, ciò che accade intorno a noi, quindi le condizioni in cui siamo, ambientali, diciamo così, o sociali, ci aiutano se sono prese dal verso giusto. E così la crisi, che nessuno ha auspicato, che nessuno desidererebbe, certamente è stata una scuola di vita micro, nel microclima familiare, quindi maggiore attenzione nella spesa. Non compro alimenti in promozione solo perché lo sono, ma perché ne ho bisogno, visti i tempi. Conservo di più, mi immagino delle ricette in cui posso riutilizzare ciò che è stato avanzato, se non nel piatto di portata o addirittura in frigo. Quindi sicuramente la vita intorno a noi ci ha costretti e ci ha indotti a recuperare anche ricette e modalità di conservazione degli alimenti che prima trattavamo con una certa distrazione. Perché lei, Giussani, è un difensore della doggy bag, immagino. Assolutamente sì, ne ho goduto all'estero, l'ho apprezzata le pochissime volte che l'ho trovata in Italia. Trovo che quando si dà valore a un bene come l'alimento, davvero non vi è differenza tra il fatto che sia avanzato, che sia se è recuperabile rispetto a quello che ho consumato. È sempre un valore che può permanere, può continuare. Quindi perché non protrarre questo valore fino alla fine, per esempio attraverso un doggy bag? Bisognerebbe cambiare nome, però, perché molti ci segnalano che se c'è qualcuno che non mangerà mai questi scarti avanzi perché di solito viene nutrito diversamente il cane, ce lo segnalano gli ascoltatori. Bisognerebbe trovare un nome italiano perché sa molto di importazione. Invece è un'abitudine che ben si sposa anche con la dieta mediterranea, anche se molti ci segnalano non la chiedono, non fa parte della cultura e poi si ha paura di essere scambiati per coloro che frugano nei cestini. C'è ancora questo imbarazzo tutto italiano del portare a casa il cibo non consumato o in pizzeria o al ristorante o addirittura il vino. Eppure sempre più persone lo segnalano come una necessità. E c'è chi tra i nostri ascoltatori dice dovrebbero essere, una ristoratrice ha chiamato e ci ha detto che lei già lo fa, dovrebbero essere i ristoratori a proporlo al cliente. Parliamo invece con lei, Giussani, anche di ciò che si butta in cucina. Parliamo di questo cibo, dicevamo circa 6,50 euro equivalente di spesa che finisce nell'immondizia. Quanto di questo cibo sarebbe recuperabile? Ma allora, ovviamente io parlo di grandi numeri, perché poi queste statistiche assumono una dimensione e un valore su grandi numeri. Diciamo che noi in uno studio di 2 anni fa che verrà ripresentato e riaggiornato tra poche settimane in Expo col Politecnico di Milano, si è verificato che circa il 45% delle eccedenze totali che ci sono in Italia sono a carico della famiglia, il resto è nella filiera agroalimentare. Questo 45% in realtà ha una grandissima percentuale di ciò che non è più consumabile, perché appunto ha raggiunto lo stato di, lei diceva, la muffa in frigo, ciò che è avanzato nel piatto, il pezzettino lasciato proprio al termine del pasto. Quindi vi è una rilevante parte non recuperabile, sia per motivi di igiene, già cominciato, già consumato, muffito, eccetera, sia per motivi di costo, perché non dobbiamo mai dimenticare che il recupero ha dietro. Prima dicevate il recupero e il riciclo di plastica e altri materiali, tutto questo ha un costo. Allora, quando il costo è equilibrato rispetto al beneficio, sia monetizzabile sia sociale, certamente ne vale la pena e tutti siamo indotti a seguirlo. Nel caso della famiglia, più che non un recupero, si può dire che vi deve essere un'attività educativa di attenzione alla spesa, di attenzione al frigo, di controllo delle date, di scadenza, eccetera, eccetera. Mentre il Banco Alimentare, nella nostra esperienza, possiamo dirlo quotidiana, vive di più di una capacità di recupero vero, concreto, di grandi quantità nella produzione e nella distribuzione, laddove non è prevalentemente un problema educativo, ma un problema davvero di logistica. Senta Andrea Giussani, in Francia da qui a breve sarà reato non riciclare il cibo ancora consumabile, cioè c'è una legge a cui tantissimi guardano con grande attenzione, lo spreco diventa qualcosa da punire anche penalmente. Secondo lei, e poi do la parola alla parlamentare Maria Chiara Gadda, che invece sta proponendo qualcosa di molto diverso qui in Italia, secondo lei è un esempio a cui guardare, da mutuare, e la legge francese in Italia produrrebbe, risolverebbe il problema alla radice, produrrebbe vantaggi anche per un'organizzazione come il Banco Alimentare? Guardi, per esigenze di brevità sarò anche un po' drastico. Di positivo in questa legge c'è il fatto che ha posto il tema sui tavoli politici, nei media, quindi è importante intervenire normativamente e legislativamente sullo spreco alimentare, ma la modalità scelta, secondo quanto abbiamo studiato e visto, non è quella che noi vorremmo attuare in Italia, e infatti ciò che si sta studiando è diverso. Perché? Lo dico in estrema sintesi. E vi piace quello che si sta per presentare in Italia? Vi piace? Sì, ci piace. Il meccanismo dell'incentivo a chi è virtuoso invece che della sanzione a chi sgarra, diciamo. Esatto, così. Il primo elemento è questo: meglio non obbligare ma incentivare, perché questo produce anche un'attività reale di processo, di modalità di recupero, che vede come protagonisti tutti gli attori della filiera, chi sta per sprecare e non spreca, chi riceve e così via. Non un obbligo a cui far fronte in modo più o meno, diciamo, normativo, formale, procedurale, ma in realtà che non produce una reale attività culturale e operativa di recupero. È molto chiaro. Sì. Sentiamo anche l'onorevole Maria Chiara Gadda. Buongiorno, benvenuta in trasmissione. Buongiorno a voi, grazie. Quindi si sta pensando a una legge, a che punto siamo dell'iter? Ma allora, la legge è a buon punto, perché è stata depositata ad aprile, già a maggio è stata calendarizzata, assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Abbiamo già avviato, prima della chiusura estiva, un ciclo di audizioni, per esempio Banco Alimentare, così come tante altre associazioni, sono già stati ascoltati in commissione, e l'idea, insomma, e l'intenzione è quella di riuscire, se è possibile entro la fine di Expo o comunque entro la fine dell'anno, ad approvare la legge in prima lettura alla Camera dei Deputati. Insomma, questo è l'obiettivo ambizioso che ci siamo posti, e confido, visto l'importanza del tema, ho ascoltato l'intervento di Giussani e assolutamente concordo con le cose che ha detto, e auspico che ci possa essere una convergenza la più larga possibile in Parlamento, perché su questo tema non ci si può e non ci si deve dividere, insomma. La spaccatura ideologica non è auspicabile. Poi Mattarella, il Presidente della Repubblica, proprio dai padiglioni dell'Expo, visto che lei l'ha citato, l'ha nominato, ha fatto un riferimento, certo, a questa legge, perché ha detto è un insulto alla società, all'economia del nostro come di ogni altro paese. Ecco, lui che è un Presidente della Repubblica un po', come dire, low profile, che non interviene spesso, su questo ha proprio preso una posizione netta, come a dire, convergenza su questa legge. Allora, proviamo a spiegare le differenze. In Francia il supermercato che non si atterrà alla, diciamo così, alle leggi sul recupero rischia sanzioni anche penali. In Italia invece cosa proponete in questa legge? Ma allora, innanzitutto diciamo che la legge italiana, quella che stiamo proponendo al Parlamento, è molto più ampia rispetto a quella francese, nel senso che riguarda un tema più ampio, che è l'economia circolare, la sostenibilità, e la lotta allo spreco alimentare è una parte importante di questo aspetto. La differenza fondamentale, come diceva prima anche Giustani, è che noi dobbiamo favorire e incentivare le buone pratiche che già esistono nel nostro paese, perché il nostro paese dal 2003 ha una legge importante, che è la legge del buon samaritano, che in questo momento necessita di un aggiornamento, perché dobbiamo fare meglio in termini di raccolta e appunto di raccolta delle eccedenze alimentari. E come si può fare questo? Si può fare incentivando dal punto di vista fiscale, ma soprattutto, e questa la ritengo la parte più importante, semplificando la burocrazia, perché da un lato donare deve essere meno costoso rispetto a buttare le eccedenze alimentari e non deve essere anche oneroso in termini di adempimenti burocratici, sì, di dichiarazioni, perché la vita, cioè, oggi un'azienda deve essere facile. Oggi un'azienda deve seguire 1000 adempimenti burocratici che a volte scoraggiano, soprattutto, certo, quando magari si ha un'eccedenza non sostanziosa, per cui poi l'azienda pensa, vabbè, visto che devo passare giornate negli uffici per ottenere, per compilare moduli eccetera, la si spinge a buttare. E soprattutto, ecco, le carte devono essere tolte, perché noi vogliamo incentivare una donazione costante, giornaliera, non una tantum, perché, chiaro, una donazione a una tantum può diciamo che si può tollerare magari qualche dichiarazione in più, ma se noi invece vogliamo incentivare un meccanismo virtuoso che rientri nella normalità del nostro agire, noi dobbiamo rendere questo percorso più fluido, e quindi la legge punta a ridurre questo aspetto, le dichiarazioni che devono essere fatte. Poi c'è anche un altro aspetto che è legato alle norme igienico-sanitarie. Innanzitutto diciamo che quando si dona, soprattutto quando si donano degli alimenti, chi li riceve deve meritare rispetto, quindi noi dobbiamo poter essere nelle condizioni di donare prodotti che sono buoni per la salute e che non hanno caratteristiche diverse. È chiaro, quelli, insomma, che non siano scaduti e di cui si controlli la validità. Perché comunque anche l'aspetto etico è importante quando si parla di un tema di questo tipo. Chi non è nelle condizioni, magari in un momento, di potersi sostentare da solo e ha bisogno di una mano, però deve ricevere un'attenzione e una cura, anzi direi ancora più particolare. Sì, ma al di là del proclama, questa legge come lo provvede, come lo copre? Sul territorio nazionale, l'esperienza del Banco Alimentare, sì, questo lo testimonia, ci sono delle regioni d'Italia dove è un po' più difficile fare le donazioni, perché le ASL interpretano le normative in modo diverso. Quindi con questa legge si vuole anche fare un'operazione di omogeneizzazione sul territorio nazionale e dare un quadro di regole chiare all'interno cui muoversi, perché altrimenti ci sono delle regioni molto virtuose dove questo meccanismo è ormai consolidato e delle altre dove si fa un po' più fatica. Invece noi vogliamo che l'Italia vada alla stessa velocità. Certo, onorevole Gadda, un'altra cosa, gli incentivi fiscali. Per chi, sì, saranno e come funzioneranno? Ci sarà uno sconto sulla tassa dei rifiuti per chi si comporta sicuramente, bene? Sicuramente sì, per quanto riguarda sia la grande distribuzione, ma anche i piccoli esercizi commerciali. Parlo per esempio, non so, dei panettieri o dei piccoli negozi di quartiere. Quindi questo è sicuramente una misura importante. E poi, come dicevo all'inizio, siccome il tema del recupero e degli sprechi riguarda proprio tutta la filiera, abbiamo pensato anche di inserire degli incentivi fiscali per le aziende che riducono il consumo di risorse nei loro processi produttivi, perché lo spreco, come diceva prima Giustani, avviene in Italia, nei paesi industrializzati, in larga parte nelle case dei cittadini, e quindi su questo dobbiamo agire anche sul fronte culturale, e nella legge sono previsti anche dei fondi per promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Però è importante ridurre gli sprechi anche in tutta la filiera, quindi nelle fasi di produzione, nelle fasi di distribuzione. Quindi, sì, perché gli sprechi non avvengono solo nella fase di distribuzione, ma anche, per esempio, durante la produzione agricola. Certamente. Si segnalano 510 milioni di tonnellate di prodotti non raccolti, a volte semplicemente perché non c'è l'incentivo economico a trasformarli in marmellata. Sto facendo un esempio banale. perché qui il tema è, non riguarda soltanto la donazione di prodotti che sono già finiti. Noi dobbiamo sapere che la donazione non è altro che un allungamento del ciclo di vita dei prodotti, e quindi il ciclo di vita dei prodotti si può allungare ad esempio donando le eccedenze, ma si può allungare anche per esempio ritrasformando i prodotti, che come diceva benissimo lei possono diventare omogeneizzati, marmellate, altri tipi di prodotti. E lì voi intervenite con un incentivo. Sì, questa parte dobbiamo migliorarla, perché sicuramente la discussione in Parlamento e il contributo anche delle associazioni del mondo agricolo ci sarà utile per cercare di capire come migliorare questo aspetto e come rendere più agevole per esempio la raccolta dei prodotti che commercialmente non sono vendibili o magari non rispettano alcune normative perché devono avere determinate dimensioni, determinate caratteristiche. Ecco, noi dobbiamo consentire con questa legge la possibilità di poterli raccogliere, magari anche utilizzando ad esempio cooperative oppure associazioni che possano magari sopperire e dare una mano, insomma, anche all'agricoltore che magari non impiega le sue risorse per raccogliere questi prodotti che non sono vendibili. Grazie. Rimanga con noi perché vogliamo richiederle un altro incentivo fiscale. È emerso nel corso della trasmissione. Diamo un attimo la linea alla regia e torniamo subito con lei. Per le vostre telefonate 800 24 00 24. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ritorniamo a parlare di queste macchinette, questi riciclatori incentivanti, perché sempre di più ci dite nei vostri messaggi: attenzione, in Svezia le abbiamo visti, perché non ne abbiamo di più numerose sul territorio italiano. E quindi approfittiamo della presenza dell'onorevole Gadda con noi per chiederle questo. E ci dicevano che la mancata distribuzione di queste macchinette, visto che siamo in tema di recupero, anche se non strettamente alimentare, è dovuto al fatto che chi le installa nel proprio supermercato, nella propria azienda, in realtà non ha un incentivo fiscale. Non si potrebbe prevedere nel corpo di questa legge sul recupero anche incentivi per chi adotta atteggiamenti e comportamenti virtuosi di questo tipo? Certo, non è un'eccedenza alimentare, ma l'alimento viaggia nella bottiglia di plastica, di vetro, nel tappo. Onorevole Gadda. Ma allora, sicuramente nella proposta di legge faremo anche altre valutazioni, per esempio relative al packaging, perché se non dobbiamo sprecare il cibo, non dobbiamo neanche sprecare le materie prime, non dobbiamo neanche sprecare i contenitori che vengono utilizzati per conservare i prodotti. Nella legge ci sono anche altri tipi di incentivi che riguardano per esempio le onlus, cioè l'altra parte della filiera, chi riceve le eccedenze alimentari, perché saranno previsti degli incentivi per l'acquisto di beni mobili, cioè i furgoncini o i frigoriferi in cui puoi osservare i prodotti. Avranno degli sgravi fiscali, insomma, questi enti caritatevoli. Diciamo che compatibilmente con le risorse che avremo a disposizione, a me è sembrato importante dare un'attenzione nella legge a tutti i soggetti coinvolti. Esatto, cioè non avete preso in considerazione solo un elemento, ma avete in qualche modo tutti gli attori della filiera li avete coinvolti. Perché è un gioco di squadra questo, si vince se si fa squadra assieme i cittadini, e anche il compito delle istituzioni sensibilizzare i cittadini ridando un senso al valore del cibo, ad educare una corretta e sana alimentazione a partire dalle scuole per esempio. Però è importante, e in questo caso dei giocatori importanti sono il mondo della grande distribuzione, i piccoli imprenditori, il mondo della produzione, ma anche gli enti locali per esempio e le associazioni caritative, perché il problema della legge francese, un obbligo per quanto mi riguarda e una punizione deve essere l'estrema ratio, però presuppone che ci sia una filiera che funzioni, quindi qualcuno che possa ricevere le donazioni. È chiaro, e questo non quindi sempre questo è possibile. E questa è una legge che ha un impianto completamente diverso. Noi l'aspettiamo qui ai microfoni Radio 24, naturalmente in ottobre, terminata la fase di commissione, per vedere quanto verrà stanziato e come poi si realizzerà. E l'augurio di tutti è che su questa legge, visto il problema amplificato dalla crisi, ma che comunque esiste a prescindere dalla situazione, che su questa legge non ci siano, come dire, interessi e strumentalizzazioni, che ci sia una convergenza, perché renderebbe il sistema paese migliore. Grazie, grazie, e l'aspetteremo naturalmente a iter ultimato. Maria Chiara Gadda ci ha spiegato questa proposta ribattezzata Spreco Zero. Buongiorno, arrivederci. Grazie, arrivederci. Noi torniamo insieme perché vogliamo sentire anche voi e le vostre voci. Lorenzo, buongiorno. Pronto? Buongiorno, buongiorno, eccomi, buongiorno. Dica. Volevo raccontarvi un'esperienza, una testimonianza, darmi una testimonianza su cose assolutamente in linea con quanto stavate raccontando. Comune di Bonassola, io mi sono trasferito qui da un anno. Provincia di? La Spezia. Sì. Il comune, su richiesta ovviamente, dà del materiale, dei pannelli per costruirsi un piccolo deposito dove inserire i rifiuti organici per crearsi del compost. Ma non solo, per cui in parte già... Nei giardini piccolo, quindi, cioè chi ha un pezzo di verde dove farlo. Vuole. Sì, certo, questo non vale non per... Non in condominio, no, al quinto bisogna piano, avere chiaro. Un piccolo appezzamento di territorio. Sì. Ma non solo, chi ritira questo materiale e fa questa operazione ha diritto a uno sconto fiscale sulla TARI, sulla tassa della Ah, interessante. Per cui mi sembra che sia la volontà di promuovere la differenziata, ma anche di dare un vantaggio fiscale. Un vantaggio fiscale, perché questo incentiva molto i comportamenti virtuosi. Lorenzo, grazie. Beh, non so. Sì, o in Scozia dice la stessa cosa. No, beh, non solo in Liguria, naturalmente. Grazie, grazie a Lorenzo. Giovanna, pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi sono trasferita da Milano in provincia di Verona in un paese che si chiama Colognola ai Colli e parlando con il sindaco dice che noi facciamo una raccolta rifiuti dell'80% circa. Non è possibile premiare i cittadini diminuendo le tasse? È un Lui po' dice sulle... che il costo della raccolta è alto, per cui non può farlo. Per ora. È un po' sulla falsa riga di quanto segnalato dalla provincia di La Spezia. Uno sconto sulla tassa sui rifiuti, anche perché, grazie Giovanna naturalmente, anche perché i cittadini in qualche modo svolgono un ruolo, un'attività, un mestiere che altrimenti andrebbe pagato con la differenziazione. Quindi perché non incentivare il comportamento virtuoso? A proposito di incentivi, a Berlino è ci sembra un'iniziativa molto intelligente, perché non copiarla anche in ogni condominio? Esistono dei frigoriferi pubblici piazzati in alcuni condomini. Chi ha degli avanzi, naturalmente, come dire, intonsi, intatti, che possono essere consumati e magari deve partire, non li può utilizzare, semplicemente li piazza lì e poi qualcuno anonimamente ne usufruirà. Andrea Giussani, sono tutti esempi anche della sensibilità crescente che si sta diffondendo su quello che è un bisogno sempre di più, perché poi voi servite le onlus con il banco alimentare. Alla fine di tutta questa di questo racconto che stiamo facendo anche stamattina, ci sono queste file di persone, queste file che si ingrossano a vista d'occhio ogni giorno di più, anche a Milano, nella città dell'Expo, e questa è una grandissima emergenza. Andrea Giussani. Sì, certamente, appunto lo scopo finale mette luce sulla possibilità più grande di recupero. Dico che dalle cose che ho sentito che ho trovato veramente molto interessanti, guardi, vorrei far notare questa cosa: l'onorevole Gadda, quindi un politico, uno pensa, un politico, si occupano di leggi ma ne saprà poco, ne sa più di noi ormai, più di noi del Banco Alimentare, della questione recupero, riciclo e possibilità di normativa. Perché? Perché abbiamo lavorato insieme, non solo noi ovviamente, cioè la differenza tra l'approccio normativo francese che si diceva prima, facciamo una norma e puniamo chi non la segue, è stato invece quello di lavoriamo insieme con tutti gli operatori. Ma perché questo? La cosa interessante che trovo valga la pena sottolineare è questa, che se noi pensiamo all'attività di raccolta differenziata di ognuno di noi nelle famiglie, nelle città italiane, ci sono città dove questa cosa ormai è diventata automatica, dove il cittadino trova normale distinguere il vetro dalla plastica, dalla carta e così via. Altre meno. Allora, noi vorremmo che anche per il recupero dall'industria, dalla distribuzione, dai negozi, dalle mense, dai ristoranti, questa pratica del recupero diventasse una forma normale, automatica. Posso buttare alcune cose perché non sono recuperabili, ma ne posso recuperare molte altre. Oggi viene vissuta come un'eccezione, un'opera di miglioramento, ma non come un normale processo. Questa è la cosa che deve accadere in Italia. Questo è il cambio di mentalità che lei ancora si aspetta, anche se in 26 anni ha registrato naturalmente. Sicuramente non per niente noi oggi lavoriamo con ben 1000 aziende che ci danno le loro eccedenze riutilizzabili. Tra l'altro, sono altre migliaia. Tra l'altro, questa riduzione degli sprechi anche a livello normativo e di legge, alcuni ci chiedono in maniera come dire polemica, i soldi dove li prenderanno, questa legge non la faranno mai, e creare questo tipo di sistema crea, come è stato sottolineato prima, anche ulteriori posti di lavoro, e non è un discorso astratto se si pensa che già gli addetti nella cosiddetta, è stata definita, poi le etichette cambiano, bioeconomia, cioè l'economia basata sugli scarti, sono 93.000, quindi non stiamo parlando di utopia. È chiaro che lavorare in questo tipo di industria può essere appagante anche per chi lo fa. Andrea Giussani, innanzitutto grazie, ma prima di salutarla ci chiedono e le sottopongo la domanda ancora una volta: qual è la differenza tra in cucina tra da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro? Come bisogna comportarsi? E deve finire in pattumiera quel cibo che ha una data che ormai è stata superata? Allora, dal punto di vista normativo, queste norme valgono innanzitutto nel momento delle transazioni commerciali, e quindi non è più vendibile un prodotto che è da consumarsi entro, né il banco alimentare, per esempio, lo consegna alle strutture caritative, perché andremmo contro le norme. Diverso è dire che sia il da consumarsi entro, scaduto, magari da pochi giorni, sia il da consumarsi preferibilmente entro, che invece non è una data cogente, in famiglia non possa essere utilizzato. Allora io posso dire, la piccola esperienza anche dei periodi di crisi è che, per esempio, uno yogurt scaduto da pochi giorni, il latte scaduto da pochi giorni, apro, annuso, assaggio e può andare bene. Quindi non drammatizzerei il seguire la data. Diverso è dire che invece, in termini di consegna, di distribuzione, sia commerciale che caritativa, queste vadano seguite tassativamente. Poi in famiglia bisogna usare il buon senso, come sì, dire. Anche perché ricordiamo un attimo che l'onorevole diceva, c'è anche un aspetto etico: io voglio dare alla persona indigente, alla mensa per i poveri, lo stesso prodotto che consumo io, non quello che io non consumerei. Chiaro. E lo do ad altri. È chiaro, ed è stata una sottolineatura che ha fatto l'onorevole Gadda, importante, quella è decisiva naturalmente, soprattutto per chi come il Banco Alimentare lavora in questo tipo di distribuzione e di filiera. Poi è una questione che richiama sempre al tanto così sbandierato, ma è sempre di attualità, problema della dignità di chi riceve, per cui attenzione anche in campo alimentare, ancora di più che con gli abiti, per esempio, altro tema che affronteremo da qui a breve. Ora noi vogliamo scomodare un professore che avevo definito provocante, mi hanno corretto dicendo non è provocante, è provocatorio, ma ha molto da raccontare, perché lui ha capito una cosa incredibile, osservando il mondo di oggi. Dice: parliamo sempre di cibo, sempre di più. Ha scritto un libro, si chiama Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari, ed è un antropologo. E il mangiar sano è diventato, secondo il professor Marino Niola, una specie di religione senza Dio. Professore, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ci spieghi cosa significa quando questa sua definizione di religione senza Dio, un imperativo morale, il mangiar sano? Sì, è diventato anche un imperativo morale, come dice lei, proprio una religione. Io credo che sia oggi la religione più diffusa dell'Occidente opulento, ovviamente l'Occidente che si può permettere di sprecare cibo, ovviamente, quindi e si può permettere queste passioni, ossessioni, questi totem e questi tabù, che poi ci dividono gli uni dagli altri, perché non è un caso che una volta si diceva l'uomo è ciò che mangia, oggi potremmo dire che l'uomo, almeno l'uomo occidentale, è ciò che non mangia, perché noi veniamo identificati più da quello che escludiamo dalla nostra dieta che non da quello che mangiamo. E parleremo di diete anche con lei e di qual è comunque, alla fine, si ritorna lì, la dieta più sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale. Prima però dobbiamo andare assolutamente sulle strade d'Italia a controllare la viabilità. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Professor Gnola, e dunque siamo orfani di religioni, nel senso che siamo sempre più secolarizzati, ma in qualche modo abbiamo sostituito la religione con questo ossessivo parlare di diete, soprattutto, questo lei prende di mira, di cibo, di osservare, l'osservanza di diete di cui nemmeno avremo bisogno, cioè ci sono quelli non celiaci che hanno eliminato il glutine, per esempio, lei segnala nel suo libro. Esattamente, ci sono molti celiaci conclamati e lì è normale che venga eliminato il glutine, però ci sono moltissimi che non sono celiaci ma si comportano come se lo fossero, e lo stesso discorso si può fare anche per le intolleranze alimentari. Ora, le intolleranze accertate scientificamente sono un certo numero, ma sono molto di più, in compenso, le presunte intolleranze. Ci sono persone che si dicono improvvisamente intolleranti a certi cibi. Ora è curioso, è come se oggi l'intolleranza alimentare avesse preso il posto dell'intolleranza religiosa. Ha cambiato oggetto, però conserva spesso la stessa carica di fanatismo, di settarismo. E quindi da questo punto di vista, allora, la ricerca giusta in sé di una sana alimentazione, no? Che cosa sacrosanta, diventa invece una sorta di passione, ossessione. Non si parla d'altro, cioè si è eliminato Dio e si è eliminato anche il demonio. No, quello sì, il demonio si è eliminato, però in compenso è rimasta la demonizzazione, e noi questa qui l'abbiamo trasferita sui cibi, per cui il posto di Satana e Belzebù oggi viene preso dal burro, dallo zucchero, dal sale. Basti pensare allo zucchero, nel giro di 30 anni l'immaginario dello zucchero è cambiato completamente, l'idea che noi ne abbiamo. Una volta era una panacea per tutti i mali. Tutti noi abbiamo avuto una zia che per qualunque cosa ci preparava mezzo bicchiere d'acqua zuccherata, cioè ti passa tutto. Oggi su quella zolletta si abbatte l'anatema dei diabetologi che ci dicono che ci porterà dritti all'inferno e così via. E questo significa proprio che il cibo allora diventa però la spia di un malessere che sta più a monte. E diventa l'interfaccia del rapporto che noi stabiliamo con il mondo attraverso il nostro corpo. E la salute del corpo diventa invece l'indizio di una ricerca di salvezza che ha qualcosa di religioso. È come se noi avessimo appunto fatto cortocircuitare l'idea di salute e l'idea di salvezza. Chiaramente, e questo non l'abbiamo ancora detto, il target, diciamo così, l'oggetto degli strali del nostro professor Gnola è l'ossessione, non è la salute, nel senso che lei, che è coordinatore del laboratorio di antropologia sociale, è anche un insegnante di gastronomia contemporanea e un sostenitore della dieta mediterranea, ma questa ossessività si può notare molto spesso anche nei discorsi di chi ci circonda. Noi però siamo partiti, professore, questa mattina dall'utilizzo della doggy bag, perché sembra che gli italiani la richiedano sempre di più, ma non sono sciolti e disinvolti come Michelle Obama, che a Roma andò a cena in una trattoria vicino al Pantheon e chiese la doggy bag tranquillamente alla fine. Gli italiani ancora hanno imbarazzo, si vergognano. Lei cosa pensa di questo usanza del chiedere di portare a casa ciò che non si è mangiato, finito, utilizzato? Non è niente male, perché in fondo sprecare cibo non è una buona cosa, no? È un atteggiamento irresponsabile, purché però, come in tutto, non diventi invece una sorta di ostentazione un po' radical chic, diventi appunto un atto di resipiscenza da ricchi pentiti. Io allora sono dalla parte del giusto, è chiaro, cioè non diventi un altro piedistallo dal quale giudicare chi non lo fa, lei dice. Chi non lo fa, esattamente, perché poi è proprio questo il meccanismo delle tribù alimentari. E chi appartiene a una tribù si sente diverso, eletto, superiore a chi invece non ha capito ancora certe cose. Ed è lo stesso meccanismo che avevano le sette ereticali nel Medioevo. Sì. Gli eletti si sentivano superiori, cioè noi siamo superiori a voi perché non mangiamo carne, voi invece siete schiavi dei sensi, non avete ancora capito che la carne fa male, che è più o meno quello che dicono molti vegani, al punto tale che ci sono in Nuova Zelanda, in Australia, dei gruppi integralisti di vegani che si chiamano vegan sexual, che non fanno sesso con i carnivori per timore della contaminazione. Ora, se non è religione questo... Con altri esseri umani che mangiano carne, quindi chiedono prima di avvicinarsi probabilmente cosa hai mangiato a pranzo. Ma al di là di questi paradossi c'è veramente una modalità giudicante che dà fastidio, che infastidisce e in fondo non è nemmeno giustificata. Piero, buongiorno, scusi la lunga attesa, buongiorno, lei da dove chiama? Lei da dove chiama, Piero? Io chiamo da Trento, gestisco un rifugio escursionistico in Valsugana. Sì. Due considerazioni sul contenitore trasporto, anche dal punto di vista del ristoratore. Non deve vergognarsi neanche il ristoratore, quindi io lo metto a fine pasto sul tavolo se vedo che nei piatti sono rimaste delle eccedenze, in modo tale che poi uno liberamente può scegliere se portare a casa il cibo rimasto. Ecco, c'è qualcuno che lo lascia lì? C'è qualcuno che lo lascia già confezionato e già impacchettato? No, qualcuno non lo utilizza, altri invece apprezzano molto l'iniziativa, quasi non ci avevano pensato, ok? Poi il contenitore è il materiale compostabile, quindi comunque è un contenitore monouso, comunque compostabile. Mi piace che lei non utilizza il termine doggy bag. No, contenitore riciclante, quindi anche lei dice bisognerebbe cambiare questo nome. C'è chi ci suggerisce schiscetta, dice che lui lo fa nel suo locale e la chiama la schiscetta, insomma utilizza un termine in dialetto contenitore direttamente. Esatto. Ma quello che voglio dire comunque è che dobbiamo andare un po' al di là, sia da parte del cliente sia da parte del ristoratore, non dobbiamo avere vergogna entrambi di proporre cose un po' nuove. Per me significa non avere rifiuti, non avere sprechi e per il cliente comunque apprezzare anche a casa il cibo che comunque è buono. Piero, grazie, naturalmente buon lavoro, e ha saltato il problema dell'imbarazzo del cliente alla radice, proprio nel senso che lui, quando qualcuno lascia qualcosa nel piatto, lo confeziona direttamente, poi deciderà il cliente se portarselo a casa o meno. E lei, professor Gnola, ha proprio sottolineato questo elemento, quello della scelta, della decisione, perché sembra che ormai con queste tribù dietetiche chi non aderisce a un certo credo in qualche modo venga additato come irresponsabile, blasfemo e così via. C'è la sostituzione della religione, c'è la sostituzione anche dell'impegno politico con questa ossessione per il cibo, forse? Assolutamente sì, tant'è vero che quello che una volta facevano i gruppi politici, i cosiddetti collettivi politici, oggi lo fanno questa sorta di collettivi alimentari che stanno nascendo spesso anche da istanze, da istanze giuste, no? Come il risparmio, come lo scambio, come la convivialità. E sono gruppi che si riuniscono, nascono intorno per esempio allo scambio di un alimento o di un elemento addirittura, come nel caso del lievito. Ci sono le comunità del lievito madre cosiddette, che nascono in rete, e questo è interessante perché dalla community immateriale nascono poi forme di comunità materiale. Questo per cui amicizie e relazioni. Amicizie e relazioni, questo è un laboratorio sociale nuovo, interessantissimo. Homo dieteticus, ci dica però qual è la dieta, perché stiamo per concludere, abbiamo veramente 30 secondi, dal punto di vista ambientale, visto che comunque lei è anche un serio conoscitore di questo aspetto, al di là delle analisi critiche. La dieta più sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale? È sicuramente la dieta mediterranea, questo lo dice l'UNESCO, lo dicono le grandi organizzazioni del food internazionali come la FAO, Oxfam, è considerata la dieta più sostenibile del pianeta, quella che fa meno pressione sull'ambiente, quella che non commette crudeltà sugli animali, ed è la dieta del futuro, quella che probabilmente riuscirà a sfamare il maggior numero possibile di persone e a distribuire il cibo nella maniera più giusta. È per questo che l'UNESCO nel 2010 l'ha proclamata patrimonio dell'umanità. La dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, questo lo ignoravamo. E io la ringrazio molto anche per questo contributo, naturalmente. Marino Gnola, antropologo, ci ha aiutato a guardarci in questi continui discorsi sul cibo e su come mangiamo, e soprattutto a non guardare gli altri, a non diventare ossessivi e giudicanti. In redazione a questa puntata hanno collaborato, e voglio ricordarli tutti perché siamo una squadra che veramente lavora molto bene insieme: Laura Faggin, con noi Silvi Boccaletti, Luca Cremonese, Massimiliano Lollis. Ora sono già al lavoro per la puntata di domani, infatti Spunti di Vista si conclude qui e ritorna domani. In regia c'è Peter Bescapè, e poi ci sono io al microfono, Irene Zerbini. Vi saluto e vi auguro un'ottima giornata.